Un buongiorno a Matteo Ferrarini e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a tutti, grazie mille di avermi concesso questo spazio e interesse. Già disponibile dal 27 febbraio su Prime Video il tuo documentario Etbet. E chi sono i protagonisti delle vicende che racconti all'interno appunto di questo documentario? Allora, i protagonisti sono due ragazzi che sono rifugiati in Europa e un ragazzo invece che è tuttora al Cairo. Allora, questi ragazzi perché li ho presi come protagonisti? Diciamo che rappresentano i rivoluzionari, la generazione che nel 2011 ha chiesto più libertà, più giustizia sociale, più democrazia in Egitto, quella che per tutti è famosa come la primavera araba. E diciamo che dopo 10 anni ho cercato di tirare le fila per vedere che fine avevano fatto. Il mio approccio è da un punto di vista umano, per questo mi sono appunto concentrato sui personaggi. Come dicevo, due ragazzi più giovani vivono in Europa, Lara Shaima vive in Svezia, Ahmed Ali invece vive a Valencia, mentre come dicevo prima Mohamed Lotfi, attivista tuttora per i diritti umani, opera tuttora al Cairo. Per quanto riguarda le riprese, come sono state realizzate? Come ti sei avvicinato alla vita di queste tre persone? Perché c'è anche una parte in animazione, giusto? Sì, esattamente. Io ho iniziato principalmente in Spagna con Ahmed Ali, l'ho conosciuto casualmente a Barcellona e tramite lui diciamo che ho avuto il privilegio, perché è tuttora molto interessante, di entrare nel mondo dei dissidenti dell'opposizione egiziana, ovviamente martoriato da una repressione molto violenta in patria e in Egitto. E quindi Ahmed Ali e Shaima sono riuscito personalmente a seguirli con 2 anni addirittura di riprese. Diciamo che ho seguito la loro vita nella quotidianità e nel loro attivismo. Completamente diverso invece è quello che è stato per Mohamed Lotfi al Cairo. Al Cairo sin da subito mi hanno detto che non sarei potuto andare, nel senso che sarebbe già il fatto di avere certi contatti era pericoloso per me. Ricordiamo cosa sta succedendo a Patrick Zaki e soprattutto a Giulio Regeni, quando aveva deciso di ficcare il naso in cose molto grandi come questa. Quindi al Cairo mi sono appoggiato, diciamo, ad attivisti locali che mi hanno fatto le riprese necessarie, rischiando tanto del loro, e per questo tra l'altro li ringrazio, non dirò mai il loro nome, ma esiste questa piccola troupe egiziana. Arrivando invece alle animazioni, ho scelto di animare il loro passato perché avevo la necessità di far sapere qual era il background dei personaggi, cosa che avrei potuto fare nel modo più classico dei documentari con un'intervista. Il fatto è che mi rendevo conto che questo passato ha segnato le loro vite, soprattutto i ragazzi più giovani, e quindi avevo la necessità di dare un background emotivo, fare capire come questo era entrato come un germe, come la dittatura ti entra come un germe, diciamo, e anche se tu riesci a scappare, allontanartene fisicamente, mentalmente non ti lascerà mai. E per questo mi sono affidato alle illustrazioni di Francesco Vecchi. Passando invece ad analizzare il titolo, che cosa vuol dire, cosa sta a significare per te la parola che hai scelto appunto per rappresentare il titolo di questo documentario? Ok, Etbet significa resisti. È un resisti che però, diciamo che loro utilizzavano, è stata quella parola che gli ha dato coraggio nel 2011 sotto le cariche della polizia, proprio nei momenti peggiori, quando tutta la folla si sente presa dal panico e vuole scappare. Sappiamo, diciamo che chi è stato almeno una volta in una manifestazione nella vita e diciamo che ma è stato sotto attacco, chi ha provato le cariche della polizia sa che ci si fa prendere dal panico e più si scappa, più si corre, più si diventa prede della violenza di regime o comunque della polizia in quel caso. Etbet era il loro modo di rimanere lì, era il loro modo di farsi coraggio, ma soprattutto rimanere uniti per fare fronte alle avversità, in quel caso alle violenze poliziesche. Credo che tuttora questa parola, anche se non per rimanere fisicamente incordonati, diciamo in una piazza, voglia dire per loro il tieni duro, resisti che un giorno andrà meglio. Per questo penso che sia perfetta, diciamo, per il titolo di questo documentario e per far capire un po' qual è lo stato d'animo di queste persone, che si sente continuamente sotto attacco, ma che decide di resistere perché ha degli ideali più forti. Perfetto Matteo, io ti ringrazio e ricordo che appunto il tuo documentario è già disponibile su Prime Video. Grazie a te Rachele, grazie mille. Ciao a tutti.